E se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Per i boss di mafia, Camorra e 'Ndrangheta, la crisi non esiste. Anzi, per loro è una splendida occasione per fare affari e le cosche ormai preferiscono il nord. L'affermazione che Milano sia la capitale dell''Ndrangheta, quantomeno sotto il profilo economico-finanziario, non deve destare stupore né dare scandalo. Quasi che si fosse con tale definizione imbrattato un territorio immune da questo tipo di contaminazioni. Non è così. Parole chiare quelle della Procura Nazionale Antimafia nella recentissima relazione annuale relativa al 2008. Non sorprendono dunque le operazioni di lunedì scorso contro le cosche di Isola Capo Rizzuto, da anni stanziali in Lombardia, ma anche quella a Modena contro il clan camorrista dei Casalesi, o ancora l'arresto in Olanda del super latitante Giovanni Strangio, il responsabile della strage di Duisburg, e le altre recenti inchieste in Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche. Mafia da export, ma non per scappare, nascondersi. Mafia da export per fare affari. Non da oggi, neanche da pochi anni. L'inchiesta di lunedì scorso parla di una presenza massiccia in grossi appalti, compresa la TAV. Parla di imprese mafiose che a colpi di intimidazioni si accaparrano commesse e lavori. Mafia di terza generazione che carica dei ricchissimi profitti del traffico di droga, investe e lavora dove conviene. Non solo ipotesi di lavoro, i numeri parlano chiarissimo. Circa il 15% delle aziende confiscate alle varie mafie in tutta Italia si trova in Lombardia. 161 su 1139, dati aggiornati al 31 dicembre, quasi il doppio di quelle in Calabria, appena 81. Proprio come diceva ad Avvenire il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, in Calabria restano le briciole, qualche supermercato, qualche palazzo, o i terreni che da sempre sono simbolo di potere. Ma gli affari si fanno dove conviene e dove si può operare meglio senza clamore, perché si è meno conosciuti e perché l'ambiente non è preparato ad affrontare l'infiltrazione mafiosa o la sottovaluta. Ma ormai è storia di decenni. Prima legata ai boss inviati in soggiorno obbligato, alle loro famiglie emigrate, emigrazione coi soldi, in tante regioni del nord. Poi al flusso di denaro sporco in cerca di investimenti per ripulirsi. Così alberghi, ristoranti, locali notturni, esercizi commerciali di ogni tipo diventano lavanderie del gruzzolo dei boss. Pecunia non olet, e così tutto avviene senza disturbo, o quasi. Eppure i segnali sono stati più che evidenti. Forse pochi ricordano, ma il 28 aprile 1995 il governo sciolse il consiglio comunale di Bardonecchia, grosso centro montano piemontese, proprio per infiltrazione delle cosche calabresi e siciliane, sia nell'amministrazione locale che negli appalti. Roba di 14 anni fa, ma ancora prima era stato lo stesso Giovanni Falcone ad interessarsi degli affari mafiosi in Lombardia. Si parlò di Milano Connection e molti si sentirono offesi. Non era possibile. Invece l'invasione silenziosa e pesante è andata avanti, tollerata o almeno non presa sul serio. Ed ora le cosche portano al nord e all'estero le proprie imprese. Movimento terra, edilizia, cemento, ma anche import-export, soprattutto nel settore ortofrutticolo. Imprese pulite, gestite da imprenditori organici, mafiosi dalla fedina penale pulita o dai figli e nipoti dei boss. Giovani che hanno studiato, che conoscono il mondo degli affari e delle banche, come il rampollo della famiglia Piromalli di Gioia Tauro, che operava da anni prima di essere arrestato nell'ortomercato di Milano. Mafia globalizzata che, quando serve, non dimentica i metodi spicci della violenza, ma che sempre più preferisce quelli subdoli e silenziosi dell'infiltrazione, approfittando, come ora, dei momenti di crisi. Da tempo magistrati e investigatori, ma anche imprenditori attenti, hanno lanciato l'allarme sulla presenza di fondi sovrani mafiosi. Già, perché per i boss la crisi finanziaria non esiste, anzi, è una splendida occasione. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Antonio Maria Mira, L'ora di aprire gli occhi, le cosche preferiscono il nord, da Avvenire del 17 marzo. Una tavola rotonda organizzata recentemente dall'OCSE evidenzia come l'odio verso i cristiani sia sempre più diffuso in tutto il mondo, Occidente compreso. Cristiani vittime di crimini di odio, non in Africa, in Medio Oriente o in Asia, ma nel nord del mondo, sviluppato e industrializzato con al centro la vecchia e nuova Europa. Sarebbe stato impensabile anche solo 10 anni fa una tavola rotonda in sede OCSE a Vienna per accendere, dalla prima volta, un faro su questo fenomeno nuovo e preoccupante. L'intolleranza e la discriminazione contro i cristiani, l'esclusione, marginalizzazione e negazione dei diritti nei loro confronti, nei 56 paesi che fanno parte dell'organizzazione che si estende dal Nord Atlantico agli Urali, dal Canada passando per gli USA fino alla Turchia e alla Federazione Russa. I lavori sono stati organizzati a Vienna dall'ODIHR, l'Ufficio per i diritti umani dell'OCSE, e per 2 giorni vi hanno partecipato 50 tra esperti, ricercatori, membri di comunità religiose e associazioni cristiane, oltre a rappresentanti di organizzazioni internazionali, sotto la presidenza del vicepresidente del Parlamento europeo Mario Mauro, incaricato personale del presidente dell'OCSE per la lotta al razzismo e alla xenofobia. La necessità di mettere a tema il problema della discriminazione dei cristiani è nata dalla valutazione del rapporto OCSE 2008 sui crimini d'odio, in cui molte pagine raccolgono purtroppo le notizie di violenze e assassini di cui sono stati vittime appartenenti alle varie confessioni cristiane, non solo cattolici, quindi. Ma le testimonianze raccolte a Vienna, sotto la clausola diplomatica nella garanzia di riservatezza nei confronti dei governi coinvolti, sono state addirittura più allarmanti, secondo 3 direttrici. Una più evidente nell'est ex sovietico, la seconda nell'Europa laicizzata, la terza infine nei paesi sempre più penetrati, anche per motivi demografici e non solo migratori, dalla avanzata islamica. Eccone alcuni esempi. Il vescovo greco-ortodosso di Cipro, Porfirios, ha lamentato, ad esempio, la distruzione o la riconversione in moschee o locali pubblici di 550 chiese ortodosse nella parte turca dell'isola. Il patriarcato di Costantinopoli ha sottolineato inoltre che in Turchia vige ancora la legge di Maometto III, per cui non ci possono essere sulla pubblica via altri luoghi di culto se non moschee. Alla basilica del patriarcato si accede tramite un ristorante. Ma se passiamo in Gran Bretagna, l'avvocato Paul Diamond ha reso noti tutti i dettagli del clamoroso caso dell'infermiera inglese di 45 anni, Caroline Petrie, licenziata all'inizio del mese scorso, ma poi reintegrata, per aver consegnato un'immaginetta sacra ad una paziente ammalata. Andrea Morigi, dell'associazione Aiuto alla Chiesa che soffre, da parte sua, ha messo in evidenza alcune conseguenze discriminatorie della legislazione spagnola nell'era Zapatero. Impossibilità dell'obiezione di coscienza per i medici obbligati alla prescrizione di contraccettivi e abortivi e impossibilità per i genitori di esonerare i figli dalle lezioni di educazione sessuale. In Romania vige l'esproprio per legge dei beni delle confessioni greco-cattoliche in favore della Chiesa ortodossa, mentre nelle ex repubbliche sovietiche è ancora oggi richiesto ai cristiani, per compiere atti di proprietà o di credito, una dichiarazione scritta che espliciti la fede religiosa professata. L'iniziativa dell'OCSE, afferma Mauro, ha il pregio di rompere un tabù tipico del politicamente corretto. Questo fenomeno è riuscito finalmente ad emergere. Aggiunge però subito dopo: non si tratta di un'esibizione identitaria dei cristiani come contraltare a quanto emerso in questi anni con l'islamofobia o con il risorgente antisemitismo. La mancanza di libertà religiosa, come diceva Giovanni Paolo II, è la cartina al tornasole delle altre libertà. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maria Antonietta Calabrò, Cresce l'odio contro i cristiani, anche in Occidente, dal Corriere della Sera del 9 marzo. Un nuovo regolamento comunitario, attualmente al vaglio della Commissione europea, consentirebbe di produrre vini rosé semplicemente miscelando vini bianchi e vini rossi, ma la Francia protesta. È l'ultima follia dell'Unione europea e sta facendo insorgere i vinaioli francesi. Già, perché dopo aver tentato di regolamentare le misure delle zucchine e autorizzato il cioccolato senza cacao, gli euroburocrati hanno deciso di occuparsi di rosé, ovvero di un vino sempre più apprezzato, prodotto con uve nere vinificate in bianco, seguendo un processo raffinato. Il mosto viene lasciato macerare con le bucce per poche ore, il tempo sufficiente per assumere una tinta rosata, pallida, intensa, mielata. Insomma, è un'arte che richiede esperienza e colpo d'occhio. L'esito è al nostro palato piacevolmente noto. Ma ben presto queste virtù professionali potrebbero risultare inutili se la direttiva elaborata dalla Commissione entrerà in vigore. Perché dannarsi tanto? Per creare un rosé basterà mischiare il rosso con il bianco, come si miscela la birra con la gazzosa. Il risultato non sarà soddisfacente? Pazienza, perché la Commissione pensa in grande, vede lontano, molto lontano. È convinta che questa soluzione permetterebbe di commercializzare vino a buon mercato in Cina, dove pare il rosé sia molto apprezzato. Per l'Unione Europea, le tecniche di produzione tradizionali non sono altro che ostacoli enologici, perché nell'era della globalizzazione i grandi numeri contano più della qualità. E poi, che c'è di male? Australia e Sudafrica lo fanno già. Bruxelles non perde tempo. Il progetto è già stato redatto e, purtroppo, già sottoposto ai rappresentanti di 27 paesi dell'Unione Europea che a fine gennaio hanno dato il primo benestare. La direttiva ora è all'Organizzazione per il Commercio Mondiale, dove gli altri stati avranno 60 giorni per consultarla. E se non verranno formulate obiezioni sostanziali, il prossimo 27 aprile tornerà a Bruxelles, dove dovrà essere votata in via definitiva. Il tutto senza clamore. Il quotidiano Libération ha rivelato la notizia e la Francia è insorta. Sarebbe un colpo durissimo, considerato che i consumi di rosé da 10 anni crescono costantemente, ha dichiarato François Millot, direttore del Consiglio Interprofessionale dei Vini della Provenza, che non intende arrendersi. I vinaioli francesi stanno preparando una campagna di lobbying a Bruxelles per bloccare il progetto, o perlomeno per ottenere una distinzione in realtà doverosa. Vogliono che sull'etichetta venga precisato il metodo di lavorazione, tradizionale o miscelato. Insomma, che ognuno sia libero di decidere. E chi s'accontenta non gode. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marcello Foa, Ecco il rosé, made in Unione Europea, mix di vino rosso e bianco, dal Giornale del 12 marzo. E se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Isabella Bossi Fedrigotti incontra Peter Hanke per parlare del suo ultimo libro, nel quale lo scrittore austriaco denuncia la pulizia etnica dolce messa in atto dai kosovari contro i serbi. Chaville, Parigi. Più che la casa di uno scrittore, sembra la casa di un mago, di un erborista. Computer non se ne vedono, macchine da scrivere nemmeno, libri sì, ma non tantissimi. Però erbe e funghi, secchi e freschi, di svariati tipi, in ogni piatto, su ogni vassoio, in ogni stanza. Funghi noti e meno noti, porcini e chiodini, ma anche certi viscidi tipi nerastri che di solito navigano nelle minestre cinesi. Il padrone dei luoghi, lo scrittore austriaco Peter Hanke, da molti anni trapiantato in questo piccolo centro tra Parigi e Versailles, come tutti i veri cercatori di funghi, ha i suoi posti segreti dove li raccoglie, nei prati e nei boschi intorno a Chaville, a volte anche nel giardino di casa. Li fa seccare, li cucina e ne mangia tutti i giorni, dice, con il riso, con le verdure o con il brodo. Devono fargli bene, perché nei suoi anni maturi, è del 1942, ha il fisico asciutto e vigoroso di un montanaro. Niente a che vedere, per esempio, con un topo di biblioteca. Sul tavolo, tra funghi, erbe, fiori e sementi, c'è anche il suo nuovissimo libro, appena arrivato dalla casa editrice, I cuculi di Vjelica Hoca. Resoconto di un viaggio compiuto un anno fa in una minuscola enclave serba nel Kosovo indipendente, con visite casa per casa, incontri, conversazioni. Volevo scrivere un reportage davvero giornalista, paradossalmente, dice, visto che dei giornalisti diffida per principio, ma a un certo punto ho smesso di fare domande e scrivere risposte, e il libro è diventato qualcos'altro, una testimonianza, una riflessione. Come tutti i suoi, il testo non è facilissimo da leggere, per il linguaggio ricco e complesso, per i numerosi collegamenti e riferimenti ad altri scritti, ad altre voci. In cambio, l'eloquio è chiaro e facile, seppur esitante a volte, in cerca di massima precisione linguistica. Si era raccomandato, Hanke, per una conversazione quieta e insiste su questo punto. Ma chi verrebbe in mente di alzare la voce, di questionare sopratono in questa silenziosa casa da alchimista eremita? Poi si capisce che è a se stesso che vorrebbe imporre la quiete, la misura, L'equilibrio, i toni bassi, i quali evidentemente tendono a venirgli meno quando affronta i temi che da sempre gli fanno vedere rosso. Le ingiustizie, le falsità, le prepotenze, le ipocrisie, le umiliazioni. Subito dopo, però, ironizza sulla sua foga che, sia pure quietamente, monta e si giustifica chiamando in causa il suo sommo poeta. Goethe diceva che senza passione non c'è poesia. Handke, si sa, è uno scrittore controverso che, con voce decisamente isolata, dall'indomani del disfacimento jugoslavo, ha sempre difeso il diritto dei serbi contro i croati, contro i bosniaci, contro i kosovari, e per questo ha suscitato incomprensioni, antipatie, se non odi. Non potevo e non posso sopportare i falsi preconcetti secondo i quali i criminali di guerra, gli aguzzini, i cecchini, i campi di concentramento erano sempre soltanto serbi, quando in realtà nessuno da nessuna parte si è risparmiato in torture, in ammazzamenti e pulizie etniche. Ma il coro degli inviati speciali era ed è sempre uniforme, come era ed è uniforme il coro dei politici stranieri in visita. A Bielica Ocha, 80 km a sud di Pristina, un tempo ricco sobborgo circondato da meravigliosi vigneti, oggi secchi e abbandonati, dove ho intenzione di tornare presto per contare quanti dei 700 abitanti che c'erano un anno fa ci sono ancora, ci si può fare un'idea di come è andata e di come ancora va. Pulizia etnica dolce, cioè con piccole vessazioni continue, soprattutto economiche, da parte delle autorità kosovare, che rendono troppo difficile la sopravvivenza alla minoranza serba. Gabelle di ogni sorta, niente acqua per irrigare le vigne, ma nemmeno per fare una doccia, corriere scarse e strapiene sulle quali non si trova posto. Intorno, gli antichi conventi ortodossi distrutti, le chiese bombardate che nessuno si sogna di ricostruire. In cambio, nel vicino paese di etnia albanese, una moschea nuova fiammante con cupola dorata. Cittadini di seconda classe sono insomma diventati i serbi. Aggiunge però lo scrittore che non di guerra di religione si tratta, bensì di nazionalismi. Anche se non riesce a scandalizzarsi per il fatto che quando ci si trova nell'angustia e nella miseria, se non nella persecuzione, ci si rivolga, ci si aggrappi, anzi con forza alla propria religione. Quanto ai nazionalismi, dice, ormai si sa che emergono furibondi ogni volta che il dio del commercio comincia a traballare un poco. Guardi cosa sta succedendo nella nostra Europa. Sono cadute le frontiere ufficiali e sempre più ne sorgono di non ufficiali, invisibili, all'interno di ciascun paese addirittura. C'è qualcosa che uno scrittore possa fare per impedire queste chiusure? Uno scrittore? Figuriamoci. Gli scrittori hanno fallito in pieno, tant'è vero che chiamarsi scrittori è ormai quasi un insulto. Io almeno mi porto addosso con notevole disagio l'imbarazzante qualifica. Certo, scrivere è il mio mestiere, anzi, per la precisione, sono uno che ogni tanto scrive e ciò giustifica la mia esistenza. Se non lo facessi, agli occhi dei miei concittadini potrei passare facilmente per un fannullone, per uno che è perennemente in vacanza. Che fare, allora? Resistere, è ovvio, è indispensabile resistere, anche se probabilmente non serve a nulla. Comunque io sono uno che può solo resistere in solitudine, non sono tipo da scendere in strada e partecipare a manifestazioni di massa. E in verità, questo lo si capisce anche senza leggere una sola delle sue pagine, soltanto osservando la sua silenziosa casa da eremita, a quanto sembra non troppo frequentata nemmeno dalla famiglia, moglie e figlia, che per lo più preferiscono stare in centro a Parigi, dove lui le raggiunge. Quando mi invitano, però, precisa ironico. Poi Handke torna a parlare dei suoi serbi di Bielica Ocha, che nel marzo di 4 anni fa hanno dovuto subire ogni sorta di violenze da parte dei nuovi signori della regione, che quando si ammalano devono viaggiare per chilometri, fino a Mitrovica, se non vogliono rischiare di farsi trattare con voluta malagrazia in un ospedale kosovaro, che si riuniscono, quelli che hanno il tempo per farlo, e cioè i vecchi, per bere caffè, giocare a carte e chiacchierare dentro e intorno a un container sarcasticamente battezzato Rambouillet, dalla località francese nella quale si tennero i cosiddetti colloqui di pace riguardanti ciò che restava della Jugoslavia. Ma dice anche, insistendo con forza, che non si possono fare confronti, che questa non è l'Irlanda del Nord come non è la Palestina, che al massimo vi corrono delle vaghe somiglianze e che pretendere di stabilire dei paralleli banalizzerebbe la tragedia di Bielica Ocha come pure le altre due. E infine, parla dei cuculi, delle centinaia di cuculi che ha visto e sentito nelle campagne intorno, tanto che ha dovuto farli figurare nel titolo del libro. Sembra che tutti i cuculi spariti dal resto d'Europa siano finiti là dove continuano a prosperare allegramente, deponendo le loro uova accanto a quelle di altri uccelli. A me paiono la metafora di ciò che avviene nella realtà con tutti quegli uccellacci d'Europa che là si arricchiscono. Per l'Austria, dove Handke continua ad andare regolarmente, anche per indurre la figlia 17enne a esercitarsi un po' nel tedesco, prova sempre sentimenti misti. Mi piace stare a sentire le vecchie storie e bei racconti suggestivi che si possono ascoltare soltanto in patria. Poi però mi capita di trovare una vecchia scritta su un fienile che in 70 anni nessuno si è dato la pena di cancellare. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. E mi viene voglia di scappare. Sono cose che lo scrittore non perdona. Ne serve tentare di consolarlo dicendogli che anche in Italia, su qualche muro, ancora sopravvive sbiadito un viva il duce. C'è un sinistro attaccamento ai cadaveri in Austria, lo si è visto anche di recente in Carinzia, dove un morto ha vinto le elezioni. E intende Haider, naturalmente, il leader dell'ultradestra scomparso pochi mesi fa in un incidente, il cui partito ha trionfato alle recenti votazioni regionali. Anche se quel morto, poi, mi ha fatto pena per come l'hanno messo in piazza. Proprio in Carinzia, la regione dove è nato, dovrà comunque tornare spesso nei prossimi tempi, perché ha in programma un libro sulla resistenza antinazista che vi si era sviluppata negli anni 30. È il mio primo testo storico in assoluto e dovrò fare molte ricerche. Per titolo, ha scelto una frase del Macbeth pronunciata dal vecchio re, «Still storm», ancora tempesta. E dal tono con cui Handke lo dice, si capisce che è perfettamente in linea con Goethe, secondo il quale, senza passione, non ci può essere poesia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Isabella Bossi Fedrigotti, Peter Handke, Pulizia etnica dolce contro i miei serbi, dal Corriere della Sera del 17 marzo. Sono sempre più frequenti le notizie di nuove scoperte scientifiche che mostrerebbero il luogo preciso del cervello dove si sviluppano determinate emozioni. Ma sarà veramente così? Il vecchio sogno di alcuni psicologi di sottrarre la mente al dominio del lessico scientifico è una semplificazione quanto mai affascinante, potente nel suo schematismo. Oggi appare di nuovo possibile grazie a sofisticate tecnologie e alle conseguenti scoperte sui rapporti mente-cervello. In sintesi, un unico linguaggio, quello della fisica chimica e della biologia, sarebbe il grimaldello per svelare i meccanismi di tutti i fenomeni conosciuti dell'universo, dal moto dei corpi celesti alle particelle elementari, dal naturale al sociale. Quest'utopia affascinante ed elegante nella sua semplicità, in pratica non funziona. Come mai? Provate a immaginare una descrizione dettagliata del funzionamento di tutti gli elementi con cui è stato costruito il vostro telefono portatile. Purtroppo non avete a disposizione il libretto di istruzioni. Pensate di essere capaci di telefonare? Il fatto è che ci sono diversi livelli di descrizione di macchine, artefatti e organismi. Alcuni vanno bene per certi scopi, ma non per altri. A differenza dei telefoni da noi progettati e costruiti, l'uomo non ha prodotto se stesso. Quando facciamo finta di aver costruito una macchina con software analoghi a quelli umani, noi possiamo interagire con il robot attivando gli stessi programmi che determinano pensieri ed emozioni. Eppure, l'hardware del robot è stato costruito dall'uomo, manipolando la materia inerte delle componenti di un computer. L'uomo, al contrario, è stato costruito nel corso di un lavoro silenzioso e nascosto durato milioni di anni dall'evoluzione naturale. È difficile quindi ricostruire a posteriori la sua storia naturale andando a ritroso. E tuttavia in questi anni sono stati fatti passi avanti stupefacenti, proprio grazie alle tecniche della biologia. È come se dovessimo cercare di capire le vicende che si sono svolte in un lungo film, di cui ci sono giunti solo gli ultimi fotogrammi. Il resto della trama è sepolto nel passato. Avete ascoltato la lettura di un passaggio dal libro di Paolo Legrenzi e Carlo Umiltà, Neuromania, il cervello non spiega chi siamo, edizioni Il Mulino, 126 pagine, 9 euro.